Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, sviluppi su all'Italia, nel senso che a questo punto anche le Poste entreranno, l'accordo con le banche è stato trovato e quindi le Poste entreranno con 65 milioni di euro in una mid company. Secondo l'ANSA questo è l'ultimo sviluppo. Che cosa vuol dire mid company? Una società che stia in mezzo, diciamo, nell'intera operazione. La struttura poi è stata definita in tutte le sue principali caratteristiche, è arrivata una nota della stessa all'Italia. La struttura della mid company in cui entrerebbero le Poste con 65 milioni, come sempre aggiunge all'Italia, vanno messi ora appunto i dettagli tecnici per renderla esecutiva. E nel frattempo anche Etihad ha fatto una sua dichiarazione, ha detto che Etihad continua a lavorare con l'Italia al fine di risolvere le questioni aperte relative a un possibile investimento. Il segretario generale della UIL Angeletti ha detto, dopo l'accordo con gli azionisti, l'accordo con Etihad è cosa fatta. E poi il ministro Lupi invece dice, ore decisive, adesso servono i fatti. Non parleremo dell'Italia perché queste sono le uniche novità. Invece parleremo del commercio con l'estero, perché è una delle poche voci positive che ci sono in questo paese. Oggi nel rapporto annuale Istat-ICE, quindi l'istituto pubblico che ha lo scopo di promuovere il commercio con l'estero, sono usciti dei dati buoni sia sulla quota di commercio estero che l'Italia sta recuperando nonostante il rallentamento del commercio con l'estero, sia sull'ammontare del surplus, quindi la differenza tra export e import, che è a record, ahimè, bisogna leggerlo bene, è a record, sia grazie alla bravura delle imprese italiane, sono oltre 21.000 le imprese italiane legate in maniera forte alle esportazioni, ma è a record anche perché le importazioni, e questo è dovuto al calo dei consumi, quindi a un'economia che stenta a ripartire, le importazioni sono in calo, quindi c'è sicuramente il merito delle imprese italiane, e poi leggeremo anche le cifre, migliaia di nuove imprese che si collocano nella fascia di imprese esportatrici, ma c'è anche il dato meno buono di un paese che, consumando meno, perché l'economia non riparte e la disoccupazione resta a record, importa anche meno. Al di là, diciamo, delle importazioni di carattere energetico che sono un po' più rigide, anche se pure quelle le abbiamo viste in calo. Per il resto la borsa. E parleremo anche del sistema aeroportuale italiano, perché portuale soprattutto, perché la vicenda Concordia chiaramente ha messo in luce quello che può essere di un disastro come quello della Concordia, la ricaduta anche per i porti e il porto di Genova nello specifico. In realtà nel decreto Sblocca Italia è prevista anche una norma che riguarda la riorganizzazione dei porti italiani. È un settore che dà lavoro a 500.000 di persone, rappresenta con 45 miliardi 3 punti percentuali di PIL, ma è soprattutto, e qui torniamo al tema delle occasioni che questo paese perde a costo zero, è un sistema che sta ancora perdendo occasioni. Perché lo dico? Perché notoriamente noi siamo in una posizione geografica, è un po', se volete, il ragionamento che si fa sul patrimonio artistico culturale di questo paese che non riusciamo a sfruttare. Noi abbiamo una posizione in questo caso geografica fantastica per tutte le merci che arrivano dal canale di Suez, e faccio notare che con la globalizzazione ormai il traffico, l'80% delle merci viaggia via cargo, via nave, e le rotte sono sempre più lunghe perché chiaramente vanno a coprire sempre di più i mercati asiatici, ma anche i mercati sudamericani e l'Oceania. Allora, solo il 4,6% di ciò che transita dal canale di Suez arriva in Italia. E non a caso il nostro primo porto, Gioia Tauro, è al 13° posto nella classifica europea, dopo Rotterdam, Anversa, Amburgo e via così, nonostante il 20% delle merci mondiali passi dal Mediterraneo. Pensate che sbarcare a Gioia Tauro rispetto a Rotterdam significa risparmiare una settimana di viaggio. Il piccolo problema è che questo vantaggio competitivo naturale che abbiamo ce lo bruciamo tutto, come? Con la burocrazia, i 18 passaggi burocratici necessari per sdoganare una merce, e anche col sistema di infrastrutture, perché chiaramente la parte cargo, che poi deve diventare, essere caricato sulla ferrovia e quindi sul vagone, non consente di mantenere questo vantaggio, con il risultato che moltissime imprese italiane o moltissime merci che devono poi arrivare in Italia, invece che sbarcare a Gioia Tauro, La Spezia o Genova, sbarcano a Rotterdam, Anversa e Amburgo, perché poi conviene portarle via treno o via camion o via gomma in Italia, e questo è veramente un assurdo. Dicevo, 349 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Per quello che riguarda la borsa, oggi Milano è positiva dello 0,50%, Parigi dello 0,40% e Francoforte pure, Londra più 0,60%, invariata invece l'America sul Dow Jones in questo momento. Euro quota 1,34, tra i titoli Saipem, dopo alcune indiscrezioni che riguardano la casa madre Eni, meno 3,60%, Ferragamo meno 3,40%, Jux pure, Finmeccanica meno 1,90% come Moncler, l'1,80% lo perde Steamark Electronics, l'1,60% Toz e l'1% Fiat. Fronte opposto Ubibanca meno 3%, Atlantia meno 1,70%, Mediaset meno 1,70%, Enel Green Power meno 1,70%, Popolare Emilia Romagna meno 1,40% come Enel, Unicredit più 1,1%, Banco Popolare più 1,1% come Buzzi, Unicem, Tenaris guadagna l'1%. Rapidamente le altre notizie in breve. Quello che riguarda l'economia internazionale, va avanti il braccio di ferro tra Argentina e Stati Uniti sul pagamento agli hedge fund che non hanno sottoscritto l'accordo sul pagamento delle obbligazioni argentine. L'Argentina ha valutato tutte le alternative legali e continuerà a chiedere al giudice la sospensione della sentenza, lo ha affermato il capo di gabinetto, sottolineando che le irregolarità del sistema legale americano preoccupano. Tra l'altro Buenos Aires incontrerà nelle prossime settimane Daniel Pollack, il mediatore incaricato di facilitare un accordo tra i fondi speculativi americani che si sono visti da ragione della Corte di Giustizia americana e il governo argentino, che se dovesse pagare quei 15 miliardi tecnicamente andrebbe in default. Non parliamo poi dell'ipotesi che debba allargare pagamento a tutti gli altri creditori del debito argentino che hanno accettato di rinunciare a parte dei soldi in cambio di un pagamento, di una parte di quello che gli spettava, in cambio poi allungando anche i tempi sul rimborso dei bond argentini. Non è un bel periodo per la banca giapponese, banca d'affari giapponese Nomura, non solo per l'inchiesta di cui abbiamo parlato ieri, che riguarda il danno che Nomura avrebbe causato alla regione Sicilia, un danno di 170 milioni di euro, ma in realtà oggi è uscito il dato sull'andamento del primo trimestre. È crollato l'utile di Nomura del 70% a 196 milioni di dollari, pesa soprattutto il calo dei prezzi delle commissioni per le attività di brokeraggio, ed è il peggior risultato da 7 trimestri, decisamente sotto le stime degli analisti. Cala l'utile anche di Deutsche Bank nel secondo trimestre a 237 milioni, i ricavi scendono del 4% a quasi 8 miliardi di euro, pesano le tasse, visto che l'utile antimposta era cresciuto del 16%. E poi Deutsche Bank, non dimentichiamolo, ha anche una grana giudiziaria negli Stati Uniti, perché dopo che è stata coinvolta nell'inchiesta sulla manipolazione del Libor, il tasso interbancario che funge da riferimento per gli interessi applicati a mutui e prestiti, ricordate quello scandalo in cui emergeva come alcuni gruppi bancari si fossero messi d'accordo su questo, ora Deutsche Bank è accusata anche di aver manipolato il fixing dell'argento insieme a HSBC e Bank of Nova Scotia. A New York è in corso una causa sulla vicenda e un gruppo di investitori ha chiesto che venga avviata una class action contro gli istituti coinvolti. una delle poche economie, veniamo all'Europa, che rivede le stime sul PIL, ma le rivede al rialzo, già abbiamo avuto modo di parlarne nelle settimane scorse, è la Spagna. Oggi il governo spagnolo ha aumentato ulteriormente le previsioni di crescita del PIL all'1,5% quest'anno e al 2% l'anno prossimo. Tra l'altro tutta la revisione sarà poi inserita a settembre, ma faccio notare che la Spagna ha ottenuto questo risultato grazie a delle riforme vere, incisive, anche sul mercato del lavoro, dove è stato reso più facile da un lato assumere, dall'altro anche licenziare. Poi uno può essere d'accordo o no, ma le riforme spagnole stanno liberando energie in un paese che era ben più colpito dell'Italia dalla crisi, anche perché aveva avuto una bolla immobiliare pazzesca, nulla di paragonabile con quello che è avvenuto in Italia. Un paese che ha una minor struttura manifatturiera e produttiva, non ha certo il record dell'export che noi abbiamo assieme alla Germania, che ha due grandi banche molto solide, ma ha avuto, e mi riferisco al Banco di Bilbao e al Santander, ma che ha avuto un grosso problema con le casse di risparmio regionali, con tutta la parte, diciamo, che si è raggruppata sotto il gruppo bancario Bankia, per cui ha avuto dei grossi problemi. Come ha fatto l'economia di Madrid a ripartire con questi tassi? Beh, secondo tutti gli osservatori, grazie alle riforme che hanno liberalizzato, reso più facile l'attività produttiva. Veniamo all'Italia. Il vice ministro dell'economia Enrico Morando dice che non c'è bisogno di una manovra correttiva nel 2014, il che non vuol dire, ha aggiunto Morando, che non siamo preoccupati dell'andamento del ciclo economico, ma parlare continuamente di manovra correttiva non è utile, è negativo. Io posso essere anche d'accordo, però il governo ci dica a questo punto, visto che per carità vuole aspettare il dato ufficiale del PIL secondo trimestre inizio agosto, va bene, poi ci dica se alla luce di un PIL che invece che fare 0,8 fa 0,2 o farà 0,3, stante tutte le previsioni nazionali e internazionali, qual è la nuova proiezione sui conti pubblici, dove andrà il deficit, cosa sta capitando alle risorse che servono dalla spending review di Carlo Cottarelli. Cioè, va bene non parlare di manovra correttiva, ma forse il governo dovrebbe capire che se si inizia a ipotizzare una manovra correttiva è perché regna molta incertezza su quella che sarà la manovra del governo, a meno che non si voglia dire, ma mi sembrerebbe molto improvvido, che passare da uno 0,8% di previsione a uno 0,2 non cambia le cose, perché allora veramente avremo a che fare, diciamo, con così dilettanti allo sbaraglio. Allora, siccome crescere di meno di un terzo di quanto previsto cambia le cose, il governo ci dica come intende: riduzione dei costi della pubblica amministrazione, rimodulazione della spesa, oppure anche andare in Europa a dire che arriverà il 3,1 e l'Europa se ne faccia una ragione, quello che volete, ma prima il governo fa chiarezza su come intende procedere a fronte di una novità, prima si placcano le voci su una manovra correttiva. Eh no, perché va ben tutto, ma sentirsi dire è sbagliato parlarne, non è parlare delle cose della manovra correttiva è negativo, vabbè, di cosa parliamo allora? Abbia pazienza, vice ministro Morando, diteci voi come farete. Intanto la Confcommercio fa sapere che nel 2013 l'Italia ha toccato, quanto a pressione fiscale effettiva, il record mondiale, al netto del sommerso, che pesa statisticamente un 17% e quindi non paga, essendo nero, le tasse. La pressione per chi è invece emerso e per chi si comporta in maniera corretta e legale è del 53,2%. La pressione fiscale apparente è del 44,1%, però si spalma su tutto. Levando il nero e le attività sommerse si arriva al 53,2%. Anche la Confcommercio stima che quest'anno non andremo oltre lo 0,3% di crescita del PIL. Gli altri istituti citano e stimano lo 0,2, Confcommercio dice lo 0,3, ci sarà un effetto sui consumi invece migliore delle attese grazie al bonus di 80 euro, la crescita sarà dello 0,2%, un pochino in più rispetto alla previsione di due mesi fa che era dello 0,1. Nel 2015, sempre secondo la Confcommercio, il PIL crescerà dello 0,9% e i consumi faranno più 0,7%. E poi oggi le dichiarazioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, che ha detto: attenzione, in Italia sanatorie, scudi fiscali, condoni sono pane quotidiano. Siamo un paese a forte matrice cattolica, abituato a fare peccato e ad avere la soluzione. Difficile tagliare i fili e ricostruire con il fisco una formula nuova. Se io evado e sono convinto che le sanzioni non arriveranno, o poi qualcuno che mi darà magari un obolo, è difficile abituarsi a rispettare le regole. E poi sempre Orlandi ha definito il modello 730 precompilato una rivoluzione copernicana nel rapporto fisco cittadini. Io non so se la matrice cattolica centri, cioè il fatto che si possa peccare e poi avere la soluzione. Qui andiamo su Max Weber, sullo spirito protestante, l'etica del capitalismo. Non so se centri con i condoni. A me sembra che gli scudi fiscali, i condoni, siano stati un ottimo modo per, da parte della politica, per avere consenso elettorale. Non so se di matrice cattolica o di matrice laica, poco mi interessa. E sicuramente tutti i condoni non hanno portato gli esiti previsti, incluso quello scudo fiscale al 5%, che, visto, noi lo dicemmo anche allora, era uno scandalo, visto che gli altri paesi, Gran Bretagna e Germania in testa, gli scudi fiscali li davano, sì, ma facendo pagare una multa pesante a chi aveva commesso un reato come l'esportazione di capitali all'estero. In Inghilterra si arrivava a pagare il 35% su quanto scudato, non, diciamo, il regalo che fu fatto al 5% a chi aveva commesso un reato. E dai. (349) 238 6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Sentiamo il ministro Lupi su Alitalia e poi invece anche torniamo sulla vicenda di Gela. Non credo ci saranno altri giorni ancora a disposizione, anche perché i tempi erano chiari da tutti, erano chiari ai sindacati ed erano chiari ai soci e alle banche. Siamo arrivati alle ore decisive, è inutile girarci attorno, Etihad aveva posto delle questioni molto chiare, a cui era stata data una risposta in maniera altrettanto chiara da parte del Consiglio di Amministrazione di Alitalia. Adesso bisogna tradurre quelle risposte in fatti molto concreti. L'alternativa è molto chiara e lo devono sapere tutti, o il baratro o lo sviluppo. Mi fa notare un ascoltatore, e ha ragione, che ho letto solo i titoli che più perdono in borsa. Avete ragione, chiedo venia. UbiBanca invece più 2,90, Enel più 2, Atlantia più 1,80, Mediaset più 1,70, Popolare Emilia Romagna più 1,30 come Banco Popolare, Enel più 1,20 come Buzzi Unici, Meuni Credit più 1% come Prismian. Ancora invece, per quello che riguarda la situazione dell'Eni a Gela, lo stabilire la raffineria, ieri ho già espresso quello che penso, cioè attenzione, è fondamentale l'occupazione di 3.500 addetti a Gela, in un'area con un tasso di disoccupazione incredibile che sfiora il 50% su quella giovanile, però non è nemmeno immaginabile che l'impianto resti così com'è, visto che è un impianto su cui da tempo si dice che andrebbe, non dico chiuso, ma completamente cambiato. L'Eni ha previsto un investimento di 2 miliardi, ho detto va bene la manifestazione dei vescovi, dei parroci, dei sindaci, però poi prendiamo atto e vediamo che l'Eni, e che con l'Eni si ottenga, diciamo, l'accordo col maggior numero di ammortizzatori sociali possibili, non a carico dello Stato, a carico dell'Eni stessa. Su questo Descalzi è stato già molto chiaro, ha detto che loro sono pronti a mettere 2 miliardi per Gela senza chiedere un euro di contributi pubblici. Domani è previsto un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico con i sindacati della Regione Sicilia. Oggi c'è stata una manifestazione a Roma indetta dalle federazioni dei chimici CGL, CISL e UIL, che si affianca allo sciopero generale in tutte le aziende del gruppo Eni per protestare contro la decisione di bloccare gli investimenti sulle attività di raffinazione in Italia. Erano presenti anche i lavoratori della raffineria di Gela. E allora la nostra Livia Zancaner ha raggiunto il segretario generale della UIL Sicilia, Claudio Barone. Noi chiediamo che si riparta con l'attività nella raffineria di Gela e si mantengano gli impegni sui 700 milioni di investimenti per renderla competitiva e riconvertirla da benzina a diesel. Chiediamo al governo di intervenire su Eni per decidere quali sono le scelte strategiche che Eni deve mettere in atto per la raffinazione, perché Eni, pur essendo un soggetto privato, la proprietà di fatto è pubblica. Quindi in qualche modo è un soggetto che anche, come dire, deve farsi carico non solo e non tanto delle esigenze sociali che pur ci sono, perché se chiude Gela è una tragedia dal punto di vista sociale, ma direi più che altro il problema vero è capire l'assetto del settore raffinazionale d'Italia, che tipo di politica intende fare per coprire il proprio fabbisogno energetico. Quante persone rischiano il posto di lavoro? 3.500 su Gela tra diretti e indotto. E dall'incontro di domani cosa vi aspettate? Dall'incontro di domani noi ci aspettiamo che il governo chieda innanzitutto di chiarire il tipo di investimenti che Eni vuole fare, perché per ora Eni ha accennato al fatto di voler investire nella raffinazione delle biomasse, però non è assolutamente chiaro questo che cosa significhi. Un'altra questione che noi ci aspettiamo è di chiarire che rapporto ci deve essere fra ricerca petrolifera, prospezioni petrolifere e raffinazione, nel senso che a Gela c'è estrazione di petrolio, in Sicilia c'è un accordo con Assominerarie, fra governo regionale e Assominerarie, per 2 miliardi di euro di investimenti in prospezioni petrolifere. È normale immaginare che se si cerca il petrolio si raffina a bocca di pozzo, non ha senso spostarlo da altre parti per raffinarlo altrove. E quindi se c'è questa prospettiva di incrementare l'estrazione petrolifera in Sicilia, è logico puntare a un potenziamento degli impianti, non a una loro dismissione. Quindi da questo punto di vista bisogna che il governo intervenga. Il governo deve dare indicazioni sulla politica energetica, su quello che vogliono fare. Leni in tutto questo cosa dice? Dice che comunque lei un piano di investimenti lo vuole proporre, dice che non ci dovrebbero essere grandi impatti da un punto di vista occupazionale, però quello che finora c'è sul tavolo è assolutamente poco. Staremo a vedere. Che tempistica si aspetta? I tempi, quelli che ci vogliono per approfondire, ma discutiamo a raffineria marciante, non a raffineria ferma. Questa è la richiesta che noi facciamo. Ora, per essere chiari, hanno assolutamente ragione i sindacati a chiedere maggiore, scusate il gioco di parole, chiarezza e impegni precisi all'Eni, perché è vero che l'Eni ha detto vogliamo investire 2 miliardi e 100 milioni per riconvertire l'impianto di Gela in raffineria per le biomasse. Benissimo, occorre essere molto precisi e avere massime garanzie su questo. La mia critica era solo verso chi pensava o pensa di poter mantenere Gela così com'è. Hanno chiuso 19 raffinerie in Europa, il settore fa perdere all'Eni circa 5 miliardi e 9 in questi ultimi anni, 5 miliardi e 900 milioni di euro. Se un gruppo nell'ambito delle sue strategie decide, e numeri alla mano, che c'è un settore o una parte di un settore che non genera più profitti, qualunque gruppo al mondo ha il dovere, non solo il diritto, di porvi rimedio ed eventualmente chiuderlo. Altra cosa è ignorare il fatto che in quella terra ci siano 3.500 persone tra indotto e dipendenti. Allora l'Eni si è impegnata per ora in maniera generica, bene fanno i sindacati a chiedere precisione, impegni e anche con delle tappe e diciamo quello che si chiama una roadmap precisa, e vedremo domani cosa uscirà dall'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. Adesso il meteo e la pubblicità, poi partiamo dal rapporto ICE-Istat sul commercio con l'estero italiano. La borsa, se ci stiamo, visto che per il sesto estivo il programma termina alle 18, anche la parte dei porti, o se no la rimanderemo a domani e chiederò appunto di pazientare i nostri ospiti. 349-238-6666 per gli sms la parte di, e la pagina di Focus Economia su Facebook. veloce a 7:33 minuti. Allora la borsa ha chiuso e ha chiuso con un rialzo dello 0,70% che pone Milano, seppur non un rialzo memorabile, tra le migliori borse oggi in Europa, più 0,44% Parigi, più 0,55% Francoforte, più 0,40% Londra, e invariata invece l'America in questo momento. Ne parleremo tra un attimo di borsa, perché invece, come ricordavo all'inizio del programma, qualche volta le buone notizie ci sono. Anche in questo caso la buona notizia arriva dall'estero, dall'export, o meglio, quindi dalla nostra capacità di esportare. E allora parliamo di questo, ma anche e soprattutto di quello che, al di là della bravura delle nostre imprese, adesso vi dirò alcuni numeri che la dicono lunga su come si stia spostando un intero asse produttivo di questo paese verso i mercati esteri. Per i mercati esteri non intendo più dire l'euro, perché quello ormai è un mercato quasi interno, ma proprio fuori dall'euro, anche perché i consumi in Italia non ci sono e le imprese non è che possono aspettare la ripresa nel frattempo, e quindi si sono già spostate verso quei mercati. È un tasso che riguarda non solo le medie grandi imprese, le cosiddette multinazionali tascabili, ma anche e soprattutto le piccole imprese. E però allo Stato si chiede di fare come fanno in Francia e in Germania, e cioè di aiutare, agevolare, rendere possibili sia sul fronte del credito che delle garanzie sul credito, che delle assicurazioni, che delle informazioni, che delle pratiche commerciali, che degli studi anche di settore, questa attività che le nostre imprese stanno già facendo. Eh sì, ogni tanto riusciamo a commentare anche qualche buon dato. Va detto che ormai da anni che gli unici segni positivi li registriamo sul nostro export. Oggi il rapporto annuale di Istat e ICE, e come dicevamo l'ICE, ossia l'Istituto per il Commercio con l'Estero, noi l'abbiamo chiamata l'Araba Fenice perché è rinata sulle sue ceneri. Non è che funzionasse benissimo quella di prima, anzi, secondo molti era un carrozzone assimilabile ad altri, Enit, non solo, ma diciamo, la nuova ICE oggi ha diffuso i dati, non abbiamo mai avuto in questo paese così tanti esportatori, sono 211.000 le imprese che esportano, record storico, sono 2.700 più del 2012. Tra l'altro questa avanzata è trainata dai micro esportatori, quindi imprese modestamente piccole, che hanno un fatturato all'estero di 75.000-80.000 euro, ma sono aumentate quelle che hanno questa quota di fatturato, sono aumentate di 17.000 dal 2004. E poi l'Istat. Perché il presidente Giorgio Alleva ha fatto notare come, nonostante la debolezza dell'export, perché l'economia non sta crescendo come immaginavamo un anno fa, eppure la quota italiana sull'export mondiale è aumentata, è passata dal 2,7 al 2,8% nel 2013. Però in tema di competitività il presidente dell'Istat ha anche ricordato che, nonostante quanto si dica, i nostri cervelli, i cervelli italiani, hanno una scarsa propensione alla mobilità. Quello che emerge è innanzitutto che in generale la mobilità non è molto elevata, cioè che le propensioni da parte dei laureati e dei dottori di ricerca sono comunque quelle di ricercare lavoro in Italia, e quindi i numeri non sono molto elevati. Il problema è la qualità di questi elementi che poi hanno queste occasioni. Io personalmente non credo che si debba immaginare che le politiche siano quelle che limitino questi percorsi internazionali dei nostri anche migliori laureati. No, lo so. Insomma, avete mai notato che la fuga dei cervelli in questo paese non riguarda mai la politica? Neanche i giornalisti, potremmo dire qualcuno. Alcuni, è vero, neanche i giornalisti. Evidentemente lì c'è meno da fuggire, forse. Comunque, buoni dati sull'export. Siamo in collegamento col presidente dell'ICE, Riccardo Monti. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, Presidente, poi arriviamo a quello che potrebbe, dovrebbe fare l'ICE e quello che state, diciamo, il cantiere con cui state ristrutturando l'ICE. Però un commento su questi dati. Lei ha fatto notare che anche il dato sul surplus commerciale, cioè la differenza tra quanto esportiamo e importiamo, quest'anno sarà a un livello record, quindi il più alto da 18 anni a questa parte. Prego. In realtà sarà il più alto della storia. Della storia. Considerando che appunto lo faremo in un momento in cui il petrolio costa oltre $100 al barile, e tipicamente gli anni di grandi surplus erano gli anni in cui avevamo il petrolio che costava poco, quindi la bolletta petrolifera aveva un'incidenza minore. Questo è un risultato molto importante, pur sapendo che una parte di questo surplus è il frutto avvelenato della crisi e del calo dei consumi. Sì, però fa bene a far notare che a maggior ragione quando tu hai un petrolio così caro è significativo il dato sull'export, perché lo dico, perché la differenza tra esportazione e noi importiamo tante cose, ma in primo luogo energia, petrolio. Allora è chiaro che quando il valore di quello che importi è molto alto, il surplus, la differenza tra export e import si riduce. Invece avere un surplus record che dopo i 37 miliardi del 2013 va a 50 miliardi quest'anno, nonostante il petrolio sia sui $100 al barile, è un dato veramente significativo. Da dove sono arrivate le spinte più forti, visto che voi avete un osservatorio molto distribuito sui vari paesi mondiali? Ma dal punto di vista geografico stiamo andando bene in Nord America, stiamo andando bene nel Medio Oriente, nel Golfo, stiamo andando bene in alcuni paesi del Sud America, e nell'anno scorso, 2013, siamo andati molto bene sia in Giappone che in Russia. Questo come fronte geografico. Sul fronte merceologico, molto bene, molto forte farmaceutica, biomedicale, quindi un settore tradizionalmente non associato all'Italia, ma negli ultimi due anni ha avuto delle crescite fortissime. E poi su settori più tradizionali, molto bene calzature, pelle, macchinari e mobili. Calzature, pelle, macchinari e mobili. E ancora, per quello che riguarda il biomedicale, in effetti ne parliamo poco, ci sono alcuni distretti in questo paese, ma è uno dei settori che sta più crescendo. Diceva delle varie destinazioni, avete notato anche voi un rallentamento nella componente, diciamo, est Europa, Russia soprattutto? Ma la Russia sicuramente in questi mesi, anche perché il rublo ha perso oltre il 20% e soprattutto è stata una perdita molto improvvisa, quindi questo ha anche un effetto psicologico. Quando il nostro cliente, il buyer, deve comprare una partita di merci in euro e nelle ultime 6-8 settimane la sua valuta ha perso il 20%, il suo timore è che questa ulteriore svalutazione possa danneggiare fortemente la sua capacità poi di generando ricavi in valuta di ripagare un debito in euro. Quindi è chiaro che più che il valore assoluto del cambio c'è anche un effetto deterrente questi grandi sbalzi dei cambi. Ecco, veniamo al ruolo dell'ICE. Cosa avete fatto voi? Perché vedo già i messaggi al 349-238-6666, è merito degli imprenditori. Allora, è sicuramente merito degli imprenditori. Però in altri paesi noi abbiamo, penso a due casi su tutti, Francia e Germania, c'è una grande capacità da parte del pubblico di aiutare, agevolare gli imprenditori. Allora, gli strumenti si chiamano di solito quelle che noi chiamiamo SACE, quindi chi assicura il rischio di credito, il rischio di impresa sui crediti, sui pagamenti, e Siemens, per cui tutto insieme anche di agevolazioni per quello che riguarda l'attività all'estero e l'assistenza, e poi l'ICE, e cioè chi deve dare non tanto a livello economico ma a livello di informazioni, studi, analisi, attività, conoscenza del luogo, deve essere, diciamo, la testa di ponte delle imprese italiane che arrivano in questi territori. Ora, noi sappiamo che in questi anni le critiche sono arrivate anche soprattutto all'ICE, si diceva in sostanza funziona bene solo quando c'è un bravo funzionario, avevamo esempi anche di eccellenza, però ci sono sedi in cui obiettivamente l'ICE fa poco, arriva tardi, arriva male, con il rischio poi di duplicazione anche con i consolati. Allora, vorrei sapere che tipo di ristrutturazione interna state facendo come sedi e anche come responsabili di sede, e poi arriviamo alla mia idea dello sportello unico per le imprese all'estero. Prego. Allora, dal punto di vista della ristrutturazione, in realtà è stato un lavoro fatto preventivamente, nel senso che quando lì c'è stata soppressa, prima che rinascesse, anzi la sua rinascita era frutto di una visione molto sistemica di come fare funzionare all'estero, che è stata sviluppata dal governo Monti, che nasceva sostanzialmente su una serie di pilastri. Il primo era la cabina di regia, quindi imporre a tutti i soggetti che avevano una posizione internazionale di avere un coordinamento riguardo alle priorità all'allocazione delle risorse. Quindi questa cabina di regia che doveva definire le priorità come sviluppo geografico, come iniziative promozionali, come paesi da seguire. Un'altra direttiva molto forte era il fatto che sulla rete estera ci fosse un coordinamento molto maggiore, da cui un ruolo di coordinamento, indirizzo e controllo molto forte del sistema diplomatico. Quindi il capo missione, cioè l'ambasciatore, ha una funzione di indirizzo e controllo molto forte su tutti i pezzi del sistema italiano all'estero, tra cui quando c'è l'ENIT, la Camera di Commercio, eccetera. Quindi diciamo questi due pilastri hanno eliminato, ridotto moltissime delle attività poco sinergiche, poco coordinate che c'erano. Le duplicazioni, diciamo, dai. Sì, la terza attività su cui invece noi siamo stati molto protagonisti è un modo di fare promozione più moderno. Più moderno significa maggiore attenzione alle nuove forme di promozione. Faccio un esempio: il viaggio in coming, quando è fatto bene è più utile far venire i grandi buyer, gli opinion leader, gli operatori nel nostro paese, perché è uno strumento di marketing molto potente far vedere i nostri prodotti con le bellezze che li circondano e da cui nascono. Un'altra cosa a cui stiamo lavorando molto, che prima era inesistente, è la promozione sull'e-commerce. Abbiamo fatto un grande accordo con Alibaba, che è la più grande piattaforma di e-commerce del mondo, che è in Cina. Stiamo facendo molto più spesso attività formativa, quindi non solo andare a vendere il prodotto in chiave commerciale e promozionale, ma spiegarlo, illustrarlo da un punto di vista, non so, su food organolettico, piuttosto che sulla moda, la storia di certe produzioni. Ecco, tutto questo lavoro è un modo più intelligente, più moderno di fare promozione, che però non ignora gli strumenti tradizionali, come ad esempio la fiera. Le fiere è un concetto medievale, ma moltissime delle principali fiere al mondo sono ancora dei momenti imprescindibili per gli operatori di quel settore. E veniamo, diciamo, alla mia speranza, non dico sogno, la mia speranza si chiama sportello unico per le imprese italiane all'estero. Voglio dire che uno dovrebbe arrivare un po' sul modello tedesco e anche in parte francese ad avere un luogo fisico, che tu sia a Shanghai, a Mosca, a Rio, a San Paolo, non mi interessa, a Kuala Lumpur, un luogo fisico, chiamiamolo Palazzo Italia, chiamatelo come volete, in cui vai e hai lì di fronte a te, nella stessa quasi sede, nello stesso luogo. Lì c'è, per quello che riguarda l'attività di promozione e anche di studio, perché voi fate anche molte attività di ricerca, forse questo va ricordato, sui mercati, no? Monti, per cui c'è tutto questo aspetto. Promozione, la SACE per l'assicurazione, la Siemens, il consolato, la Camera di Commercio, perché magari c'è bisogno anche di sapere se ci sono altre presidenze, ma tutto raccolto in un unico sportello, per cui io vado e dico: guarda, io avrei bisogno di sapere alcuni dati merceologici, aspetti che le mando il collega della Camera di Commercio piuttosto che del Lice, io vorrei avere delle informazioni sulle garanzie sul rischio credito, aspetti che le mando il collega della SACE, vorrei conoscere in generale le opportunità del governo del paese, aspetti che parla con l'addetto dell'ambasciata o del consolato. È un sogno? Allora, devo dire che da un punto di vista logico questa integrazione sta avvenendo a grandi passi, nel senso che oggettivamente è un sistema molto più coeso. Noi abbiamo, negli ultimi due anni, abbiamo portato fisicamente dentro sedi di ambasciate e consolati circa una trentina di uffici ICE. In molti uffici all'estero la SACE sta con noi, come ad esempio Mosca. Siemens non ha una rete estera, ma si appoggia strutturalmente all'ICE. Io tra l'altro sono anche vicepresidente della Siemens, quindi proprio per favorire un coordinamento tra la gamba promozionale e la gamba finanziaria, il governo Monti decise di mettermi, diciamo, in tutte e due le gambe. E per esempio in alcuni luoghi anche fisico, a Shanghai sono tutti insieme, consolato, ENIT, ICE, eccetera. È ovvio che già farlo logicamente, quindi lavorare in maniera coordinata, essere in continuo contatto, risolve il 90% dei problemi. A Teheran siamo fisicamente lontani, non c'è lo spazio in ambasciata e uno deve adattarsi a lavorare bene anche se non si sta fisicamente allo stesso posto. Questo a Teheran. In bocca al lupo e speriamo di vedere confermati almeno questi 50 miliardi di surplus commerciale da voi previsti. Grazie al presidente dell'ICE Riccardo Monti. Grazie a voi, speriamo che il surplus nasca più da più esportazioni che da meno importazioni, va bene? Ah beh, questo è importante, fa bene ricordarlo nel finale, cioè uno può avere un avanzo della bilancia commerciale perché importa di meno e quindi i consumi sono fermi, diciamo una tutta, oppure perché esporta di più pur aumentando le importazioni, quindi vorrebbe dire che i consumi sono in crescita e il paese si sta riprendendo. A 7:50 minuti, allora la borsa e poi un aggiornamento sull'Alitalia. I porti li facciamo domani. Il tema è delicatissimo, per cui vorrei avere tutto lo spazio con gli ospiti che sono sia i rappresentanti dei porti italiani che però degli agenti che quindi rappresentano le compagnie di navigazione. Allora, Guido Maurino, Radio Colle, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dunque, bene, UbiBanca più 3%, Enel Green Power più 2,15%, Atlantia più 1,80%. Enel più 1,50 come media, 7 buzzi unici, Municredit più 1,30 come la Pop, Emilia Romagna e Prismia, l'1% lo guadagna Snam, Tenaris, ma anche Autogrill, Eterna e le Generali. Fronte opposto invece Iux meno 3,5, Ferragamo meno 3,20, Moncler meno 2,90, Saipem meno 2,80, Steamark Electronics meno 1,90, Tods meno 1,80, Finmeccanica meno 1,5, World Duty Free meno 1%, debole oggi il lusso. Però vorrei un commento su Enel, Mediaset e anche Saipem. Sì, allora, per quello che riguarda Enel, che ha guadagnato l'1,56%, il mercato inizia a posizionarsi in vista della semestrale che sarà approvata giovedì. Oggi sono stati un po' diffusi i consensus per quello che riguarda i risultati della prima parte dell'anno e sulla base delle stime di un gruppo di analisti, di 14 analisti, si può prevedere che il risultato netto di Enel al 30 giugno sarà in calo del 7% a comunque 1,57 miliardi, con un margine operativo lordo di 7,7 miliardi, anch'esso in calo all'incirca del 7%. Per quello che riguarda Mediaset, pochi minuti fa sono arrivati i conti della società, ma soprattutto il mercato continua a guardare a quello che succederà a Mediaset Premium, quindi la Pay TV del gruppo. Ieri l'agenzia Radio Cora ha raccolto l'indiscrezione che venerdì ci sarebbe stato un contatto fra il vicepresidente di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, e il presidente della francese Vivendi, sì, Bolloré, proprio su questo tema. A lungo si è discusso sul fatto che Mediaset Premium cerchi degli accordi, delle partnership internazionali, e questa è una delle ipotesi sul tavolo. Per quello che riguarda infine Saipem, meno 2,82%, il gruppo è tornato all'utile nel secondo trimestre per 75 milioni, ma anche tagliato le prospettive per l'anno in corso. In particolare ha rivisto le stime di utile netto nell'intervallo 280-330 milioni per l'intero anno, rispetto a un'indicazione precedente che spingeva l'utile fra i 280 e i 380 milioni, e così ha anche tagliato stime sull'indebitamento, sulle vendite, insomma un po' di tagli di prospettive che hanno pesato oggi sul titolo. Bene, appunto, anche altri titoli, ricordavamo il caso di Enel, Enel Green Power più 2,15%, c'è la costruzione del primo parco eolico in Uruguay, e poi è giovedì che arriva la trimestrale di Enel, giusto Guido? Sì, Enel, sì, Green, okay, Power domani e Enel giovedì. Vorrei chiudere con una debuttante, Mail Up, che ha fatto un bellissimo debutto, più 22,20%, chiaramente il miglior titolo sul listino. Sì, ha debuttato sul listino dedicato alle piccole società, quindi il listino AIM, è una società che si occupa di gestione in via professionale di mail, newsletter, sms, fax, che ha raccolto sul mercato, che ha collocato sul mercato il 15% del capitale, raccogliendo circa 3 milioni, una società che non ha debito e che utilizzerà queste risorse, questi 3 milioni, per crescere all'estero e in particolare in Asia. E il peggior titolo invece è Okedos, meno 8,81%, Ageas meno 8,50%, primi sui motori meno 7,50%, la Doria meno 5,60%, il migliore oltre a MailUp, Mondo TV più 14%, e Seat Pagine Gialle più 7%. Grazie a Guido Maurino, Radio Corri, Sole 24 Ore. Sì, probabilmente avete ragione, la semestrale dell'Enel è stata anticipata domani 30 luglio, quindi probabilmente arriverà assieme a Enel Green Power. Alcune risposte sulla Spagna: è vero che la Spagna ha un record europeo di disoccupazione, ma non ce l'ha per colpa delle riforme. Però attenzione, finché non riparte l'economia è impossibile che diminuisca la disoccupazione. Ecco perché dicevo, la Spagna è l'unico paese che va in controtendenza e rivede al rialzo le stime, 1,5% quest'anno e 2% l'anno prossimo. Noi quest'anno facciamo lo 0,2-0,3, ecco, ognuno ci faccia i suoi conti. Gianni Dragoni, in chiusura ti uso come una specie di così di velina, perché oggi è arrivata anche la conferma che Caio, nonostante le riluttanze, quindi Poste Italiane metteranno 65 milioni. Cos'è una mid company? È una nuova società, mid, quella che sta in mezzo, middle company, sta in mezzo tra chi? Tra l'attuale Alitalia CAI, che diventerà, si svuoterà e diventerà la vecchia Alitalia, alcuni anni fa era la nuova, e si svuoterà e trasferirà tutte le attività operative di volo in una nuova società, l'ha detta anche la new company, quella in cui entrerà come socio Etihad con il 49%. Le Poste, che erano state chiamate a fare un aumento di capitale dell'attuale Alitalia CAI insieme alle banche e agli altri soci, hanno detto no, noi i soldi li mettiamo solo sotto, no, dove non c'è più il contenzioso o i debiti del passato. Allora, per trovare un accordo tra chi diceva di no e chi voleva farlo, come le Poste, si è deciso di creare questa società cuscinetto intermedia, la Midco, che sta tra la CAI e sta tra la nuova società, la new company Alitalia. Allora, questa società intermedia Midco avrà come soci tutta la CAI attuale più le Poste accanto, quindi i 65 milioni che le Poste mettono, anziché metterli nella CAI, li mettono nella nuova società. Cioè, fammi capire, c'è la CAI, no? Poi sotto in mezzo c'è la CAI più le Poste, ho capito bene? Esatto, in un nuovo guscio societario. In un nuovo guscio, e poi sotto ancora ci sarà la CAI più le Poste e il 49% di Etihad. Esatto, oh, quindi capito. Le società, anziché due, saranno tre. Comunque devo dire che l'Italia è una grande prateria, un grande humus per sfornare nuove formule societarie, perché la bad company l'abbiamo imparata con l'Alitalia quando ci fu l'operazione della CAI, mo c'è pure la mid company, qualcuno mi chiede la MILF company, non so cosa sia la MILF company, però dico la mid company, ho capito adesso cos'è, ed è appunto per Caio, per non entrare con CAI entra in una società sotto e poi tutti e due entrano con Etihad, speriamo esatto. Che poi tutti si entri in una nuova fase e tra bad, mid, MILF, Newco, la finiamo con questa vicenda. Grazie a Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, da Sebastiano Barisoni vi auguro di una buona serata. Domani ci occupiamo del trasporto merci dei porti italiani, della riorganizzazione dei porti italiani. Intanto adesso il resto della nostra programmazione. Radio 24, la passione si sente.